Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Il turno di questa settimana è quello della Caritas di Padova. Ritroviamo il direttore Don Luca Facco, ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti. Dunque, in questi giorni anche a Padova si presenta il dossier statistico immigrazione curato da Caritas Italiane e da Migrantes. Lo facciamo con te in chiave padovana, ma ripartendo dal titolo, no? Perché è importante, una citazione del Papa, non sono solo numeri. Sì, desideriamo tenere sempre vivo l'argomento e il tema, sia nel mondo ecclesiale sia nel mondo civile, proprio per non ricadere negli stereotipi. Credo che sia importante leggere il fenomeno, capire i numeri, approfondire, proprio per capire, conoscere e riuscire anche a trovare risposte sempre più adeguate a questa nuova sfida. È una sfida appunto che tocca anche molto il padovano. Ci sono magari elementi, in Veneto le presenze sappiamo sono più numerose, nel Trevigiano, nel Vicentino numericamente, diciamo, però insomma anche Padova ha presenze significative, no? Sì, la situazione che sperimentiamo anche qui nel nostro territorio è di un fenomeno che sta diventando sempre più inevitabile, e lo vediamo soprattutto poi sia dal punto di vista della presenza dei ragazzi, dei minori presenti nelle scuole, e qui Padova ha proprio una percentuale anche molto alta, sia di ragazzi stranieri nati in Italia e sia ragazzi che sono arrivati da altri paesi, per cui soprattutto nella scuola osserviamo che questo è un fenomeno che ha una grandissima percentuale e una grande presenza. E poi c'è il mondo del lavoro, perché ovviamente i bambini vanno a scuola, ma i genitori, ove possibile, lavorano, giusto? Quest'anno questo report si sofferma in particolare sul tema dell'immigrazione e mondo del lavoro. Nell'attuale situazione che stiamo vivendo di crisi, quello che si osserva è che comunque la forza lavoro immigrata continua a svolgere una funzione di grande supporto del sistema economico e produttivo, sia per la giovane età, sia per la disponibilità e la flessibilità. Infatti si osserva come gli immigrati sono concentrati nelle fasce più basse del mercato del lavoro, e questo sicuramente ha delle conseguenze. Da una parte sono molto più disponibili a fare lavori che molti italiani non sono più disposti a compiere, però dall'altra parte anche le ispezioni condotte nel 2011 hanno riscontrato situazioni di irregolarità, soprattutto a causa del lavoro nero. Questo credo sia il grande attenzione da tenere sempre vivo, che è il rischio di non sfruttare e che non siano sfruttati nei nostri territori, nei nostri ambienti. Quello che alla fine non è emerso con la recente sanatoria, che non ha portato queste grandi regolarizzazioni. Sì, abbiamo osservato che i numeri non sono stati come ci si aspettava, per vari motivi che erano proprio insiti anche nella sanatoria stessa, ma questo non vuol dire che il problema non sia presente, soprattutto del lavoro nero nel nostro ambiente. Voi lo percepite magari dai centri di ascolto, dalle Caritas parrocchiali, come esatto. Vi arriva? Cosa vi arriva di questo aspetto? Noi lo percepiamo appunto perché attraverso il centro di ascolto e poi attraverso anche le accoglienze che facciamo, noi abbiamo una presenza di persone irregolari che bussano, che chiedono e che esistono, e per cui sicuramente bisognerà trovare una risposta come società civile. Una risposta che voi date ovviamente nell'ambito dei limiti della legge, perché chiaramente una persona che è irregolare, certo, dal punto di vista legislativo dovrebbe seguire un certo percorso. Qui la Caritas come si comporta? Bisogna distinguere sicuramente nelle situazioni di emergenza umanitaria, penso alla situazione che andremo a vivere adesso con tra virgolette emergenza, perché non lo è, perché è ogni anno l'emergenza freddo. Noi siamo chiamati comunque a dare una risposta attraverso le nostre strutture di accoglienza a tutte le persone, perché di fronte a una questione umanitaria noi dobbiamo dare una risposta dignitosa alle persone che vivono in questo territorio. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. tocchiamo un altro aspetto, che è quello dei profughi dall'Africa, ne sono arrivati tanti anche nel Padovano, stanno per scadere i termini per il loro permesso temporaneo. La situazione a Padova, nel territorio della diocesi, perché poi voi avete scelto una linea di diffusione capillare, com'è? Sì, sempre giovedì, in occasione di questa presentazione del dossier, abbiamo preparato anche un piccolo testo dove raccontare la nostra esperienza che abbiamo vissuto come enti gestori dell'accoglienza dei profughi. Abbiamo raccolto le varie storie sia da parte delle persone accolte, sia da parte degli enti gestori, sia da parte dei volontari, sia da parte di tante realtà e associazioni che hanno collaborato. È stato proprio quello che abbiamo osservato alla fine, che è stato il frutto di una grandissima collaborazione. Il fenomeno e la questione dell'accoglienza dei richiedenti asilo politico è complessa da tutti i punti di vista, perché c'era bisogno di iniziarli a insegnare l'italiano, c'era bisogno di tutte le pratiche burocratiche, c'era bisogno di inserirli in un territorio e nessuna realtà da sola poteva indipendentemente fare tutto. Per cui abbiamo scelto proprio la strada di creare un coordinamento fra tutte le varie realtà in modo da riuscire a dare una risposta a questa emergenza, l'emergenza Nord Africa. Abbiamo raccolto in questo testo le storie più significative e sicuramente l'accoglienza diffusa nel territorio, per cui piccoli gruppi di 3-4 persone in tutto lo spazio della diocesi, attraverso le disponibilità delle parrocchie, abbiamo visto che ha permesso un inserimento di queste persone nel territorio. Per cui ora che si sta chiudendo col 31 dicembre l'emergenza Nord Africa, noi abbiamo soprattutto nelle realtà quelle piccole che si è avuta la possibilità di chiuderle, perché queste persone sono state assorbite dal territorio, cioè hanno avuto l'occasione di entrare a contatto anche con datori di lavoro, di farsi conoscere, di farsi apprezzare e per cui di essere assorbiti. E credo che questo sia la cosa più interessante. Certo che rimane, soprattutto per le accoglienze dove quelle più numerose, rimane il problema di che cosa succederà dopo il 31-12, e qui stiamo ancora aspettando le indicazioni da parte delle istituzioni. Ci confermi che la Libia è stata solo la loro ultima tappa? Sì. Perché quasi nessuno di loro è libico, in sì, realtà. Sì, nessuno di loro, almeno quelli che noi abbiamo incontrato, è libico, erano tutte persone che lavoravano in Libia. E quindi avevano anche professionalità e preparazioni specifiche, credo, anche di un certo livello. C'è di tutto, nel senso che c'erano persone con belle professionalità e c'erano anche persone anche con gravi problemi dal punto di vista sanitario, per cui abbiamo avuto veramente situazioni molto molto varie. Cioè, abbiamo osservato che anche per noi come Caritas è stato importante la collaborazione con le cooperative sociali, perché noi abbiamo messo a disposizione le case, soprattutto ex canoniche chiuse, abbiamo messo a disposizione il volontariato per fare una sensibilizzazione del territorio, ma poi abbiamo avuto proprio bisogno della professionalità delle cooperative sociali, perché era un'accoglienza non semplice da vari punti di vista. E in questo credo che la collaborazione è comunque sempre la strada vincente. Qualche politico locale, non solo adesso ma anche durante questi 18 mesi ormai di emergenza profughi, si è lamentato, indignato, perché a queste persone vengono dati garantiti 50 euro al giorno, quando molti nostri pensionati ne prendono sì e no 500. Voi come avete gestito il passaggio dei soldi, che credo dal ministero passi attraverso la Caritas? No, per noi Caritas di Padova no, nel senso che noi Caritas di Padova non abbiamo firmato nessuna convenzione, Caritas di Padova non ha preso un solo euro, noi abbiamo fatto un accordo con le cooperative sociali dove noi abbiamo messo a disposizione dei locali, le cooperative sociali hanno firmato la convenzione sia per offrire i servizi di base, di accoglienza, ma con i 46 euro offrire anche tutti i servizi di accompagnamento. per cui a queste persone in questi mesi è stato garantito, oltre che il vitto e l'alloggio, è stato permesso di iniziare tutti i percorsi, soprattutto dal punto di vista linguistico, sanitario, essere accompagnati nelle questure, i primi tentativi di entrare nel mondo del lavoro, proprio perché questo tempo servisse per essere proprio assorbiti dal territorio. Quindi i soldi non andavano direttamente agli immigrati? No, c'è stato poi condiviso tra tutti gli enti gestori e le istituzioni il fatto di garantire a queste persone il pocket money, per cui alcuni euro da dare a ciascuno personalmente per le proprie spese personali, ma i soldi sono serviti solo ed esclusivamente per garantire l'accoglienza. Giusto fare un po' di chiarezza, perché poi su quando si tocca il problema soldi si rischia sempre di fare un po' di demagogia. Allora, grazie Don Luca, ci ritroviamo al prossimo appuntamento. Grazie e buona continuazione. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.